stato un lampo da una nuvola. Hai detto come posso farcela, oh, la mia risposta non è qua, non è qua. Tra mille anni.